So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectations, her dream burned up like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way old man should spend his day? Let it smolder. Chase the wind, that's all the city life requires. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up like paper and fire. Paper and fire, singing up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way old man should spend his day? Early Bird Special, come la colazione che servono tutte le mattine molto presto nei diner ai bordi delle highway americane. Early Bird Special è anche la prima colazione che viene servita dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Dopo Joe Mellencamp, Pepper on Fire, gli Eagles, Tequila Sunrise. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so comes down to dealing friends. never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Il vecchio Chuck Baird preferisce il caffè nero bollente, gli Eagles, la tequila sunrise. Vi piacerebbe sapere com'è nata Something, la splendida canzone di George Harrison presente su Abbey Road? Beh, se avete la pazienza di sciropparvi 4 minuti di Roundabout degli Yes, lo saprete. Thank you. Erano gli Yes, Roundabout, ma vi avevo promesso i Beatles, e i Beatles avrete. George Harrison scrisse Something al piano durante le registrazioni del White Album. Ci fu un periodo dove i quattro erano in studi differenti, registrando diverse cose, cercando di terminare altre iniziate dai diversi componenti. George approfittò di alcuni tempi morti per scrivere Something. Gira attorno ad una sequenza di cinque note, su una tonalità che si adatta alla maggior parte dei cantanti. George Harrison la scrisse con l'idea che fosse Ray Charles a cantarla, cosa che peraltro fece qualche anno più tardi. A quel tempo George non era particolarmente eccitato dal fatto che Frank Sinatra mise Something nel suo repertorio. Sinatra apparteneva infatti ad una generazione antecedente alla sua, e George fu molto più felice quando cantanti di colore come Smokey Robinson e James Brown ne fecero delle loro versioni. Something era una bella canzone, e il fatto che un sacco di gente ne faceva delle cover sottolineava la sua bontà. Una volta George Harrison incontrò Michael Jackson in uno studio della BBC, alla televisione inglese. L'intervistatore cominciò a parlare di Something e Michael, con una certa sorpresa, disse: «Oh, ma questa l'hai scritta tu? Pensavo fosse di Lennon e McCartney». E invece no, è di George Harrison. Eccola qui, Something. Yeah. I'm on a night train. Guns N' Roses, l'Early Bear Special. Oh, la dolce Cherie è arrivata con una mail che mi è stata scritta la scorsa settimana. Naturalmente abbiamo una certa inerzia qui con le comunicazioni, ma tranquilli, voi scrivete e sicuramente il vecchio Chuck Bird racconterà le vostre cose in diretta. È la dolcissima Delia che mi scrive: il mio super rockettaro ti ascolta tutte le mattine. Non mi ricordo se fai le dediche, se per caso decidessi di farla, grazie, prego. Questa dunque è per il super rockettaro di Delia, che si chiama Erminio e faceva parte di una formazione rock chiamata Neurodeliri. Questa, quindi, questa trasmissione la vogliamo dedicare a lui, eh? Ah, ragazzi, ma è finita! Non me ne sono accorto. Cherie, grazie mille per la comunicazione. Segniamoci Motorhead per una delle prossime puntate, perché Erminio è un fan del gruppo di Lemmy. Al vecchio Chuck Bird, a questo punto, non rimane far altro che ringraziarvi per l'ascolto e di lasciarvi con i restanti programmi dall'etere di Rock FM. Da Chuck Bird è tutto. Aloha.